Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'eclettica di metà settimana quella che si appresta ad iniziare in compagnia di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni fra le 19 e le 20, ad iniziare la serata di Rock FM dopo Edo, che vi ha accompagnato fino a qua. E dopo Eclettica ci sarà Marco Garavelli, poi Claudio e poi Maurizio Faolisi. Eclettica di cui trovate le tracce su internet su myspace.com/eclettica, oltre ovviamente al sito www.radiorockfm.com. Giulio@radiorockfm.com è il mio indirizzo di mail a cui scrivere nel caso vogliate essere iscritti alla lista nera, così da ricevere settimana dopo settimana la playlist della trasmissione. Il viaggio di Mercier e Camier posso, se voglio, raccontarlo, perché sono sempre rimasto con loro. Fu un viaggio di nessuna difficoltà materiale, senza mari o frontiere da superare, attraverso regioni poco accidentate, anche se deserte per collocazione geografica. Restarono a casa loro, Mercier e Camier. Ebbero questa inestimabile occasione. Non dovettero cimentarsi, con maggiore o minor fortuna, con modi di vita stranieri, con una lingua, un codice, un clima o una cucina bizzarri, in ambienti che avessero, dal punto di vista della somiglianza, un sia pur minimo rapporto con quello a cui l'infanzia prima e l'età matura poi li avevano abituati. Questo era l'incipit di Mercier e Camier di Samuel Beckett. We'll be right back. Gay! Dum Dum. Yes? You give me Gum Gum. I give you Gum Gum? You do Dum Dum, you give me Gum Gum. Yeah, okay. You know what? I have no Gum Gum, sorry. And my name isn't Dum Dum. My name's Larry. No, your name Dum Dum. Electric President, appena ascoltati con Dotted Lines, band statunitense che sembra tanto europea nelle sue sonorità, e prima ancora Frightened Rabbit, band britannica che pur essendo europea invece sembra tanto statunitense nei suoi suoni, con Square Nine. Sono questi i due primi brani di Eclettica di quest'oggi, per lasciare ora lo spazio ad una nuova produzione statunitense. È una band il cui nome è OK, una band che ha una storia particolare perché il suo leader Marty Anderson ha una malattia. Una malattia che si chiama morbo di Crohn, che lo costringe a vivere all'interno della sua camera da letto che non può abbandonare. È lì che lo raggiunge la band per registrare le canzoni di questo album di esordio intitolato Huggable Dust, dal quale vado ad estrarre Mai. am I gonna show? It's my heart you got. More than hooray, more than I can say. It's my heart you got. More than you see, more than up to me. It's my heart you got. More than alone, more than on your own. It's my heart you got. Sono nella stanza di mia madre. Sono proprio io a viverci adesso. Non so come ci sono arrivato. Forse in una ambulanza, certamente un mezzo qualsiasi. Mi hanno aiutato. Da solo non ci sarei arrivato. Quell'uomo che viene ogni settimana, forse sono qua proprio per merito suo. Lui dice di no. Mi dà un po' di soldi e si porta via i fogli. Tanti fogli, tanti soldi. Sì, adesso lavoro, un po' come una volta. Soltanto che non so più lavorare. Ciò non ha importanza, sembra. Quanto a me, ora vorrei parlare delle cose che mi restano, congedarmi, finire di morire. Loro non vogliono, sì, sono in molti, pare. Ma a venire è sempre lo stesso. Questo era l'incipit di Molloy, di Samuel Beckett. trouble, Dum-Dum. You better run, run from Attila the Hun-Hun. See you later, Dum-Dum. Everyone's right and no one is sorry. That's the start and the end of the story. From the sharks and the jets to the call in the morning. Everyone's right and no one is sorry. Start and the end of the story. From the sharks and the jets to the call in the morning. And life is just bets anyway. Look alive, see these bones. What you are now, we were once. Try as they might, no one's immune to misfiring and acting on the wrong clues. And thinking it's time to redo and redo. I feel rain in the movies and the talk before the screen lights. I hear strings in the park. I don't like to call a ride except when it's too late at night. I mostly just think in the dark. Look alive, see what you are now, we were once. But just like we are, you'll be dust. And just like we are sono gli sprazzi cinematografici di Una notte al museo nella versione originaria. Ci sono le parole di Samuel Beckett ancora per qualche tempo a tenerci compagnia. Poi c'è la musica di Eclettica. Musica come quella dei Nada Surf con See These Bones, brano appena ascoltato, come quella di My Robot Friend, invece ascoltato appena prima con Robot High School, o come quella che sta per arrivare. Però voglio prima sottolineare una cosa, prima di chiudere la prima parte di questo volume numero 3 della settimana numero 12 di Eclettica. L'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, ho notato che ultimamente viene usato un po' di meno interattività da parte vostra. Ne vorrei un po' di più, vorrei sentire le vostre critiche, i vostri suggerimenti, le vostre parole. Vediamo di ascoltarci una nuova prova che uscirà il 19 di febbraio, French Kiss. French Kiss è l'etichetta, Sleep Forever è il titolo dell'album, The Big Sleep invece è il nome della band, un trio che proviene da Brooklyn. Questa è Bad Blood.